antipatica Antigone. Fu Creonte quel demone che le diede un nomignolo di antipatica Antigone. E avevo due fratelli, yeah, yeah, yeah, che facevano la guerra, yeah, yeah, yeah, e per questo fu rinchiusa, yeah, yeah, yeah, tra pareti sottoterra. Finita la giustizia e libertà, è una parola che appassirà, ma un giorno l'uomo si ribellerà. Troppi diamanti sono morti già, troppi rimpianti. Tu avevi due fratelli, yes and no, che facevano la guerra, sì lo so, e per questo sei chiusa, Sofoclo, pareti sottoterra, Sofoclo. Tu avevi due fratelli, yes and no, sì lo so, e per questo sei chiusa, Sofoclo, pareti sottoterra, Sofoclo. E per questo sei chiusa, pareti sottoterra.